Allora, adesso abbiamo l'ultima comunicazione del professor Rizzacasa dell'Università di Perugia e quindi intorno alle 7:05 cercheremo di finire e poi andremo dopo tanto e duro lavoro a rifocillarci, va bene? Allora, prego. Dunque, essendo l'ultimo, essendo l'ora tarda, cerco di fare solo qualche considerazione. Tralascio logicamente le citazioni per le quali faccio rinvio al testo. Ecco, il problema della critica alla teologia, perché in fondo di questo si tratta quando parliamo di Heidegger, è un problema che si imposta come successivo a quello della critica alla metafisica, in un itinerario complessivo dove il tema di fondo è quello di vedere se esiste uno spazio per l'ulteriorità, uno spazio che in fondo è rivendicato già dalla critica alle totalizzazioni filosofiche e viene perseguito da Heidegger, diciamo, in una triplice via. Una via che potremmo definire kierkegaardiana, centrata sul Dasein e centrata sul momento interrogativo, una via che potremmo determinare come via, diciamo, di critica al tema metafisico e quindi al concetto di essere verso qualcosa che è oltre, e una via che in certo senso esplicita il tema di fondo dei presupposti fenomenologici. Ecco, potremmo dire che il passaggio è quello da una fenomenologia attraverso una ontologia fino ad un discorso, si vedeva, che tematizza il sacro e il divino, ma che in fondo, ecco, è alla ricerca di questa ulteriorità. Ora, un discorso di questo genere, secondo me, acquista un valore per chi dopo Heidegger si dedica a queste tematiche, soprattutto di ordine metodologico. Nel senso che si tratta di aprire una via per andare al di là del discibile. Questo al di là del discibile, per cui, ecco, se noi riconsideriamo, no, i limiti che aveva individuato Heidegger tanto nella storia del problema dell'essere con tutti gli oblighi che hanno determinato le soluzioni metafisiche e di cui in fondo l'ontoteologia non costituisce che il punto più elevato, e quindi la necessità di spostarsi da una tematizzazione ontica ad una tematizzazione di ordine diverso. Se prendiamo in esame del resto quanto Heidegger diceva in rapporto anche all'altra via, il rapporto a Kant, allorché tematizzava il problema della cosa in sé, evidentemente anche qui si evidenziava uno spiraglio. Quindi il tema di fondo è proprio questo: cercare uno spazio per l'ulteriorità. Questo spazio per l'ulteriorità che evidentemente è uno spazio recuperato o per via metaforica, comunque per via allusiva, o tematizzato, come si vedeva in altre relazioni, attraverso il pensare poetico. Cioè, lo spazio qual è? Noi andiamo dalla parola, e quindi attraverso i limiti della parola, al silenzio. Andiamo dalla via dell'essere alla via attraverso il nulla, con tutta la positività del nichilismo. Allora, in questo senso, il tema del senso dell'essere lascia lo spazio al mistero e quindi lascia lo spazio ad un silenzio meditante, ad un silenzio che di fronte ad un possibile vuoto, ad una possibile nostalgia di una totalità, di un totalmente altro, è un silenzio che appunto evoca e invoca, è un silenzio che tematizza. Ora, evidentemente qui siamo con Heidegger, ma siamo al di là di Heidegger. Siamo evidentemente in un itinerario in cui Heidegger non fa altro che aprire un metodo. E del resto lo si vede attraverso la lettura delle opere pubblicate, lo si riconferma, come vedevamo abbondantemente questi giorni, attraverso la lettura degli inediti. Ma evidentemente quando poi noi andiamo a costruire il discorso religioso, noi ci troviamo a lavorare in questo spazio che Heidegger cercava di aprire, ma ci troviamo a percorrere un lavoro che va indubbiamente al di là del pensiero di Heidegger. Io non vado oltre perché il tempo non me lo permette, dovrei commentare esplicitamente dei passi di Heidegger e penso che già a tarda ora non sia il caso di farlo. Grazie. Io ringrazio il professor Rizzacasa non solo per il suo intervento ma anche per il modo in cui ha rispettato i tempi e adesso passo la parola al nostro presidente, il professor Penzo. No, c'è bisogno del Penzo che per la conclusione di questo convegno. Io non so veramente come ringraziare tutti i presenti che sono stati così bravi per 2 giorni in fila, senza mai muoversi, fino alle 11 di sera, a lavorare assieme, però è veramente stato, direi, un vero cenacolo, un convivium. Cioè, io mi sono sentito molto arricchito dalle varie conversazioni fatte dai tedeschi, dagli italiani, dagli austriaci, e adesso ormai il giorno declina, il buio sta già circondandoci, perciò il mistero, cadiamo nell'ambito del mistero, aumenta il mistero, e allora direi che non si chiude il convegno, ma lo lasciamo aperto nell'ambito del mistero e dopo lo riprenderemo. Tanto vedo che c'è il nostro professor Monsignor Roger, che è Roger, devo tutto a Roger, insomma, ecco, praticamente la sua bontà, la sua generosità, la sua intelligenza e la sua apertura alla problematica filosofica teologica ha fatto di questo, direi, questa istituzione veramente un trampolino verso, diciamo, ecumenismo filosofico teologico del 2000, va bene? Allora un ringraziamento particolare a Monsignor Roger, un applauso. E un ringraziamento a tutti i presenti, quindi praticamente cominciamo a destra, a sinistra, per caso a sinistra c'è von Herrmann, molte grazie, poi Gott, grazie, poi i due colossi di gesuitismo, poi c'è Rane, è venuto fuori in ombra, cioè nel mistero. Cioè, abbiamo anche visto Rane, quindi praticamente siamo in buona compagnia questa sera. Ecco, direi a tutti quanti, anche a Cucisi che viene da Budapest o vicino Budapest, Ungheria diciamo, che lei ha liberato l'Ungheria. Ecco, allora un ringraziamento a tutti e ci vediamo dopo a bere assieme una bottiglia di spumante. Monsignor Roger ha pensato anche allo spumante, adesso prego Monsignor Roger. Thank you.